sguardo infermo ai rai del sol si volge, non sostiene il gran lume in colpa al sole e nell'error dei sensi che risolvi